Siamo con Daniela Poggi, protagonista del film L'Esodo, che sarà programmato alla Casa Internazionale delle Donne il prossimo 8 maggio. Daniela, benvenuta. Grazie, benvenuti a voi che mi avete cercata e chiamata e mi ascolterete. Daniela, lo raccontiamo brevemente? Allora, intanto l'8 maggio è domani sera e noi abbiamo pensato di programmare il nostro film L'Esodo, la regia di Ciro Formisano, opera prima, per sostenere la causa della Casa Internazionale delle Donne, perché ha un problema di mancato dialogo con il comune di Roma e quindi c'è in atto uno sfratto. Ritenendo che la Casa Internazionale delle Donne sia un luogo di assoluta importanza e deve continuare a vivere proprio perché è un crocevia culturale non solo femminile ma mondiale di tutti i generi, e poi anche una struttura storica in se stessa, e quindi noi abbiamo pensato che l'abbinamento del film L'Esodo, che racconta la storia di una donna che si trova da sola a gestire la sua famiglia, che è composta da una figlia e da una nipote, e si ritrova in seguito a quella che è stata poi una scelta politica di avallare la legge Fornero. Si ritrova senza più pensione, senza stipendio e senza soldi. E di conseguenza l'unica possibilità che ha estrema per poter continuare a pagare l'affitto per mantenere appunto se stessa, la nipote e precedentemente la figlia, e dare la possibilità a sua figlia, a sua nipote, di avere, come dire, una parvenza di vita normale nei confronti dei suoi coetanei a scuola, decide di andare a chiedere l'elemosina e quindi si porrà come bandiera di una rivolta, si porrà come testimone di una mendicanza di Stato, così viene definita, poi verrà definita nel film. Proprio per dire, io ero una donna normale, ero una donna che lavorava, ero una donna che guadagnava, che aveva uno stipendio, ho firmato un accordo con la mia azienda, con il datore di lavoro, per avere un prepensionamento. Purtroppo la legge che fu varata nel 2011 alla fine fu anche retroattiva, per cui anche coloro che avevano firmato precedentemente all'avallo della legge furono praticamente bastonati da questa scelta politica. È un film intenso, drammatico, ma con una grandissima, come l'hanno definito tutti, una grandissima luce di speranza, una grandissima apertura, perché Francesca è una donna forte e fragile, con una dignità incredibile, non si ferma davanti a nulla, è sufficientemente umile ma anche molto guerriera, e soprattutto nutre nei confronti della nipote un amore smisurato, viscerale, per cui la porterà a fare questa scelta così estrema, ma anche poi, insomma, una volta che gli spettatori vedranno il film capiranno perché io dico anche poi. E quindi la Casa Internazionale delle Donne, una causa di sfratto, Francesca, la mia protagonista dell'esodo, una causa di mancata di sfratto anche in un certo senso dalla sua dignità, perché è stata sfrattata dal poter avere una vita normale, ci è sembrata un'occasione importante per poter mettere appunto il nostro film a disposizione. E sarà un'entrata libera, libera offerta, a sostegno appunto della casa. Daniela, come è rientrata nel progetto? Beh, mi ha chiamato il regista, mi ha detto, mi ha cercato attraverso un amico suo, è venuto, ci siamo incontrati, mi ha proposto questo personaggio, mi ha dato il copione, gli ho detto dammi un po' di leggere, voglio capire. E quando ho letto il copione ho pianto tantissimo, mi sono commossa, ho pensato che era un film straordinario, una bellissima scrittura, lineare, pulita, intensa. Il film, sapevo che era un film a basso, a low budget, anzi quasi direi a inesistente budget. Per me sarebbe stata una grandissima sfida, anche quella di portare sullo schermo non soltanto una storia vera, perché tratta da una storia realmente raccontata da una delle esodate, e poi si vedrà anche nei titoli di coda, ma un personaggio che mi dava la possibilità di esprimermi in tutte le mie gamme emozionali, espressive e intenzionali anche. Quindi poi un'opera prima e poi una protagonista assoluta dall'inizio alla fine, quindi Un importante, film che ha ottenuto anche diversi riconoscimenti. ecco. Sì, abbiamo vinto parecchi premi, da Villamare a Napoli Film Festival, al Siena, al Foggia Festival, a Fano, insomma, tanti, tanti bei premi. Siamo molto contenti perché comunque questi film sono piccoli, sono indipendenti, un po' bistrattati proprio dal sistema italiano cinematografico, perché poi è molto difficile avere una distribuzione, non ci sono mai le sale sono soltanto per film importanti, mezzo, e quindi insomma, poteva essere un film non visibile, potevamo fare un bel film, ma che poi magari non sarebbe stato fruibile per nessuno. Invece ce l'abbiamo fatta, devo dire, è stato veramente un piccolo miracolo, con il sostegno anche dei vari comitati degli esodati. Abbiamo fatto tantissime proiezioni in tutta Italia, e dal 9 novembre che è uscito, e tra l'altro il 9 maggio uscirà anche in DVD, quindi c'è anche la possibilità di comperarlo, vederselo a casa e anche regalarlo se uno vuole. Allora, ricordiamo l'appuntamento con l'Esodo alla Casa Internazionale delle Donne l'8 maggio. Un ringraziamento e un saluto a Daniela Poggi, che ne è protagonista. Daniela, un abbraccio e a presto. Grazie, un abbraccio a tutti e vi aspetto, 20:30 domani 8 maggio.